Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ma sinceramente non la guarderò perché domani c'è Halloween, quindi... Cercherò di andare a cena con mia moglie, perché sennò siamo sempre in ritiro e giochiamo alla fine. Sono da poco sposato, però rischio il divorzio molto prima. La registrerò comunque. Non ti crediamo, via. No, credetemi, perché sono stato già minacciato, quindi. Però la registro e la vedo dopo. Tanto Antonio Conte, oltre a Franco Piantanelli, autore di questo programma, Fabio Cantadone in regia, il capitano, tutti loro sanno benissimo, Lotito sa benissimo che la Roma stasera vincerà con il Chievo. È stato infatti il presidente della Lazio a scoprire il segreto meglio custodito di James Pallotta. Ha scritturato 5 maghi che per 5.000 euro a cranio, io credo, a vittoria, spingono la magica. Ci credete? Controllate su internet, radio romane che impazziscono. Corriere della Sera, pagina 56, ultima sui giallorossi, vincono grazie ai maghi. Come ti mascheri, Pierluigi Pardo? Ma io faccio la telecronaca, quindi mi maschero con... ma la vorrai fare mascherata la telecronaca? Certo, cioè, ma io la faccio sempre mascherata. Diciamo, sì, quasi sempre. Ma devo dire la verità, adesso faccio outing, a me Halloween, non lo so, io sono mediterraneo, è una cosa che mi ha sempre lasciato un po' di... un po' così interdetto. Detto questo, la cosa dei maghi è meravigliosa, cioè io credo che veramente rientra in quelle forme di folklore legate al calcio, che sono, che poi non si sa l'origine, no? Cioè, è una cosa che nasce per autocombustione, si alimenta sulle radio e Lotito dice, non dice, ammicca l'altra sera al processo, insomma, va abbastanza ridere. C'è anche una lettura diversa di questa. Lotito ha detto l'altro giorno che è scatologico, lui la magia non crede, però c'è una lettura diversa secondo cui non sarebbero proprio 5 maghi veri. A parte che mi piacerebbe sentire uno di loro, 800240024, aperto anche ai maghi, non solo agli ascoltatori. Così come c'è il segreto bancario, c'è anche... Lascia stare le banche, che oggi non si pigliano soldi e non si bevono caffè. È Halloween, ci sono i maghi alla Roma, manca qualcosa? Forse sì. 800240024, mancano gli ascoltatori che però arrivano. Dolcetto? Lo vuoi? Sì, dai. Eccolo qua. In zona c'è Kakà, il pallone per lui, Kakà da lì può calciare. Kakà! Rete! Rete! Torna col Kakà, è un gol bellissimo! L'hai chiamato tu, Maurizio, gli ha detto da lì può calciare ed effettivamente hai visto lo spazio giusto. Ci stava quella conclusione a giro sul secondo palo e Kakà l'ha messa lì con grande classe. La cosa più bella della notte dopo Tiki Taka. Grazie della fiducia, ma è stata una magia vera, questa pure è un'opera, non so se è l'opera di un mago, però insomma è un bel mattone sulla crescita e sul recupero di autostima e di immagine di Kakà, perché insomma la partita col Barcellona era stata una partita positiva, intensa, nella quale Kakà aveva mostrato soprattutto la capacità di soffrire, di sacrificarsi per la squadra. Ieri è stata una partita veramente a 5 stelle, insomma, da Kakà ante litteram del 2007, ma insomma, ecco, siamo nella galleria dei migliori Kakà, ecco, i migliori, sì, Kakà della nostra vita, direbbe Galliani, che è un fan di una canzone di quella canzone. Sai, una specie di Gianni Morandi, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica, sembra lui il ragazzino, mentre il vecchio stanco imbolsito è il numero 45, che più della cresta sembra aver perso la gioia di giocare, calcisticamente lobotomizzato. Sì, premesso sempre che appunto non si può, non è da questi particolari che si giudica un giocatore da un paio di partite sbagliate, ma sicuro. Di questo stiamo discutendo, però insomma, siccome il calcio è materia liquida, come ripetiamo spesso, nel senso che le cose cambiano in un quarto d'ora, possono cambiare, cambiano di partita in partita, di settimana in settimana, indubbiamente il Balotelli delle ultime due partite sembra un giocatore svogliato, depresso, poco esuberante, e la sensazione, la tentazione di pensare che appunto togliendo la cresta abbia tolto la sua energia, la sua espressione, la sua intelligenza emotiva, mi verrebbe da dire, beh, insomma, a me sembra che non abbia più voglia, cioè non lo vedo neanche rabbioso, al di là del solito giallo, ma quello ormai va di default. Per esperienza cassaniana di rapporti, questi giocatori qui non bisogna mai lasciarci prendere dalla parola sempre o pensare che ci possano essere tendenze di medio e lungo periodo, nel senso che sono giocatori imprevedibili, lunatici, ma normale, sono belli così. Milan-Fiorentina, magari Balotelli fa doppietta e migliore in campo, che non mi sorprenderebbe assolutamente, perché hanno un talento incredibile, ovviamente anche un po' di discontinuità, e quello che vediamo nelle ultime partite sicuramente di Balotelli è una pesante discontinuità. Scherzetto Pardo. Passa Quadrado, arriva in area, ancora Quadrado, il dribbling, giù Quadrado. Doppio. Altro giallo per simulazione, espulso Quadrado. Fiorentina in 10. Errore di Calvarese. Dal possibile rigore della Fiorentina, l'espulsione di Quadrado. Grande Napoli che vince la partita della maturità, la partita forse più importante del suo cammino fin qui in campionato. La Fiorentina ricorre per Quadrado, chiede la prova TV per l'espulsione, scrivono oggi. Beh, insomma, sai, un episodio del genere è un episodio pesantissimo, anche perché è un episodio che arriva al minuto 90 praticamente, che cambia la partita, insomma, c'è poco da discutere. Non era rigore, era doppio rigore, triplo rigore, quindi l'arbitro ha commesso un errore gigantesco, insomma. E detto questo, la partita è stata bellissima, soprattutto per un'ora, è stata intensissima, il primo tempo è stato qualcosa di veramente pazzesco. Il Napoli mi sembra che abbia avuto più cinismo, più esperienza, più personalità, abbia corso di meno, ma abbia corso meglio, abbia sfruttato meglio le sue qualità. La Fiorentina è stata molto generosa, ma un po' distratta. E mi sembra che questa sia oggi la distanza fra due squadre. Una è già compiuta, l'altra forse. L'altra no, nonostante un giocatore da 9 gol fin qui in 10 partite, si chiama Giuseppe Rossi, una delle superstar di questo campionato che a me piace da morire. Leonardo su Twitter scrive che i 5 maghi della Roma sono Strutman, Pjanic, Totti, De Rossi e Gervinho. Mi viene voglia di credergli. 800240024, caro Pier, stai anche lì, Garcia, traffico. Anche Garcia. No, Garcia è Merlino. Garcia è il capo dei maghi, Harry Potter. Gli altri sono i maghetti sul campo, strade. Ma Roma, magica Roma, lo dice la parola stessa, lo dice. Ma io sono un cattolico praticante, vabbè, cristiano, sì. Alla magia credo poco. Siccome ho una visione escatologica, credo sempre al valore, del bene. Tutti convocati. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. E come battizzo contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata ti protegge la Madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto ti protegge la Madonna dello sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innomineto. Questo è Claudio Lotito, presidente della Lazio. 800240024, numero verde, mi fa impazzire l'estremismo del popolo del calcio. Balotelli senza creste come Batman senza maschera, uno zombie pronto per questa sera. Roberto da Belluno, oppure non è fantascienza pensare che è stato Raiola a dire a Balotelli di giocare male per venderlo a gennaio al Chelsea, oppure molti altri. Giovanni da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Come si maschera? Pronto? Come si maschera? Che maschera mette stasera? Giovanni. Mette la maschera di... No, ho tempo, ritorno tardi dal lavoro. Lascio fare alle mie nipotine. Cosa voleva dire? Sulla partita di ieri, Fiorentina-Napoli. Sentivo dire la differenza tra Napoli e Fiorentina. Io ritengo che sia... non sia ancora, diciamo così, per il Napoli. Non vedo ancora quel cinismo, non vedo ancora quella determinazione forte della squadra di ambire. Vabbè, ma Giovanni non vede neanche Cristiano Ronaldo e Messi con la maglia azzurra del Napoli. Insomma, bisogna non so se sia cresciuta la percentuale di Benitez dal 75 al 77% sulla condizione della sua squadra, però quando si vince a Firenze Secondo me conviene prendere il bello e il buono, mettere in un fagotto, incassare i tre punti ed aver grande fiducia. Poi si può vedere quello che si vuole, no Pierluigi? Sì, assolutamente. Guarda, non solo perché ha perso la Juve a Firenze dopo una partita che aveva controllato per 60 minuti, quindi a dimostrazione del fatto che la Fiorentina e quel campo lì sono complicatissimi da gestire, no? Basta una fiammata per rischiare di bruciarsi. E io penso che il Napoli ieri abbia fatto una buona partita, una partita di grande intelligenza. Poi è ovvio, il calcio alla fine sono anche episodi, l'ascoltatore ha ragione, con quel calcio di rigore probabilmente sarebbe finita 2-2 e quindi avremmo dato un verdetto diverso, avremmo parlato di un Napoli che nel finale non era riuscito a gestire la situazione, questo è abbastanza evidente, però è anche vero sì. Che il Napoli era finito in 10, che quindi un po' di sofferenza era abbastanza logica, abbastanza prevedibile. So, a me ha dato ieri la sensazione, questa sensazione, di essere più avanti rispetto alla Fiorentina, di essere un po' più furba, di saper correre meglio. Di avere anche maggiore spessore, maggiore sostanza, esatto. Di essere, per dirla, cioè, come si fa, si può fare nel pugilato un peso massimo contro un peso medio, non lo so, giratela come... Come vi pare, poi secondo me gli episodi come quel rigore contano come le parate di Reina, sono quei lampi che insomma che rendono meraviglioso il calcio in questo strano autunno caldissimo, la Roma, i maghi, Conte, la festa di Halloween, chissà come si veste, banche chiuse per sciopero con le vetrine piene di zucche, la terza età anche calcistica al potere, curioso paese nel quale abitiamo. Maurizio Crosetti l'ho evocato prima, eccolo qui. Eccoci, esco dalla zucca, buongiorno. Una buongiorno specie di Gianni Morandi, eh? Sì, cacà, una specie di Gianni Morandi rosso-nero, un eterno ragazzo, tra un po' andrà in pensione, ma ha sempre la faccia da bambino, anche se adesso la pubblicità dei biscotti in realtà gliela fregata El Shalà, una pubblicità che porta una sfiga terrificante, perché da quando mangi biscotti non fa più gol. L'hanno fatto sparire, magia, sì, magia, magia. Totti, no, tonica, Caggio, Ordino. Il socio di Morandi però è Garcia, questo vi invito a riflettere. Sì, questo è vero. Fisicamente, sì, sì, no, quell'altro è fisicamente che non ci siano dubbi. Maurizio, la Juventus è un work in progress e si vedono i progressi. Il Milan, nel Milan di progress c'è poco. Secondo me, al di là del lampo di Kakà, poi adesso sono tutti qui a dire: ma avevi detto che era vecchio, non è vecchio, Balotelli è quello scoppiato, Kakà è quello forte, ma perché bisogna estremizzare per forza? Comunque, questo 1-1 non dice e non risolve niente per il Milan, secondo me. Non risolve niente, di progress non c'è niente, e il work è forse sbagliato se porta a questi esiti, anche se poi è strana. Strana la vita, strana la maniera con cui si affrontano le partite. Tu giochi quasi alla pari contro il Barcellona e poi vieni quasi fatto a pezzi da squadre molto più piccole, dal Parma, la Lazio ti raggiunge, continui a prendere gol di testa, il sesto quest'anno, il Milan ha preso 17 gol in 10 partite, 6 di testa, no? Come se ci fosse una specie di coazione a ripetere l'errore, ben sapendo dove sta l'errore, no? E dove in teoria, però poi in pratica è difficile, in teoria si dovrebbe andare a limitare. Invece sempre la fotocopia delle stesse brutte cose. È una squadra, veramente un ciclo stile più che una squadra. Pierluigi, come hai visto la Juventus? Io bene. Secondo me la Juventus ha una faccia diversa. Sì, con un quarto d'ora iniziale così un po' di rodaggio e un paio di occasioni concesse al Catania, quindi una partenza un po' lenta, poi però ho visto una squadra molto, molto tosta, molto cinica, ma insomma io sulla Juve, l'ho detto dopo Firenze, mi ero anche lanciato nel pronostico di una possibile vittoria a Madrid che non c'è stata, però insomma io la vedo sempre una squadra molto forte, per me rimane la favorita del campionato dal punto di vista dei valori tecnici. Certamente ci sono stati dei segnali di nervosismo all'inizio di questa stagione con Conte protagonista che ha voluto lanciare dei segnali perché evidentemente non era troppo soddisfatto, ecco, mi sembra che anche a giudicare dalle sue reazioni di ieri sera molto più distese forse comincia a intravedere l'intensità che si era perduta, che è la chiave per la Juve, perché sì, da questo punto di vista, nonostante l'arrivo di un giocatore eccezionale come Tevez, io penso che soprattutto in Europa chiaramente la Juve non ha i colpi, il talento, il genio che hanno le prime 4-5 squadre che ci sono in giro per l'Europa, per cui per riuscire ad andare avanti, per riuscire a fare delle imprese in quel tipo di palcoscenico deve avere un livello di intensità, di ferocia agonistica, di cattiveria che deve essere quello dei primi 2 anni, forse direi addirittura di più del primo anno rispetto al secondo, Insomma, questo tipo di situazione la Juve forse non ce l'aveva qualche settimana fa. Mi sembra che le ultime due vittorie siano state molto confortanti. Sì, questo è vero. C'è chi scrive anche via SMS, invece non è vero, secondo me, ma per forza bisogna estremizzare nel calcio. A te renderà gustoso il calcio, a me lo rende penoso arbitraggi così pilotati per Juve e Napoli, ma va bene, voi per voi fate il vostro mestiere, ne avete bisogno. Vabbè, lasciamo stare in questo strano paese. Non abbiamo bisogno di niente, io avrei bisogno. No, ma veramente, guarda, ma questa cosa qui è una, posso dirla, è una... è puntata che non ha senso, non ha proprio senso dal punto di vista di un telecronista, per esempio. Non c'è niente di peggio, non c'è niente di più orribile che dover raccontare una partita condizionata dagli episodi, anche perché entri in un loop mentale che lo devi ripetere ogni tanto. Se lo ripeti molto, sai che ci sono quelli che si arrabbiano perché lo ripeti, se lo ripeti poco perché lo ripeti poco, cioè è veramente, vi assicuro, dal punto di vista del telecronista vi assicuro che è la più grande rottura di scatola che ti può capitare, perché tu vorresti commentare il gioco, la partita e non avere casini, e invece gli episodi arbitrali te la scompilano. E secondo me nel calcio di oggi dobbiamo avere anche questa maturità di capire che la rovinano anche agli arbitri. Quello che ci diceva Graziano Cesari, cioè che l'arbitro di Real Madrid Juventus per un po' non lo vedremo, insomma, questo è un dato di fatto. Ci sono relazioni che vengono fatte continuamente. Poi un conto è il fatto che il arbitrale magari non ha la forza, il coraggio di ammettere gli errori pubblicamente, no? Sì. Oppure lo fa soltanto parzialmente, cioè, ogni tre errori si sente Prati che dice una cosa, una su tre, eccetera. Vabbè. Però dal punto di vista ormai triangoli un rigore, triangoli un rigore. No, io domani faccio mettere, se vengo, perché non so se vengo domani, perché sono due giorni che lotto con le cuffie, lo dico pubblicamente, se non mi cambiano. Io sono qui, ascolto voi, ma intanto armeggio con mille cuffie e sento dei rumori stranissimi. Io domani, se non mi sistemate le cuffie, lo dico pubblicamente alla nazione, non mi presento. Allora, no, volevo dire una cosa, ancora una cosa, Maurizio Crosetti, su questo strano paese dove c'è un presidente che dà dello stronzo e dell'evasore al suo capitano, poi festeggia la vittoria più importante della giornata, la decima, magari grazie anche all'arbitro, si chiama Aurelio De Laurentiis. E vabbè, ma siamo quasi a novembre, ormai si avvicina il cinepanettone, nei cinepanettoni De Laurentiis si parla così, no? Cioè è già tanto che non abbia fatto un rumore con la pancia, e dico pancia, insomma, a parte gli scherzi, mi sembra perfettamente in linea con il personaggio. Ma la Ti basta? No. O devo aggiungere qualcosa? No, io voglio sapere se la NSA è riuscita ad intercettare anche le telefonate di De Laurentiis e degli arbitri. Ma lì c'è poco da intercettare, cioè si intercettano di solito le cose che si dicono in segreto. De Laurentiis è per molti versi anche un personaggio prezioso per noi giornalisti, vulcanico, pieno di spunti, pieno di titoli, no? Nei titoli non accademici, titoli di giornale, perché ogni volta che parla è un titolo, quindi dobbiamo ringraziarlo, ci fa ricordare il calcio dei presidenti un po' bizzarri, folcloristici qualche volta, del passato, da Romeo Anconetani a Costantino Rozzi, quindi in realtà è anche simpatico, però non c'è nessuna ragione per intercettarlo, perché tutte le cose, siccome lui è incontinente, non si tiene nulla, no? si intercettano quelli che hanno dei segreti da riservare a un telefonino, e lui non li riserva, anche se all'onore del vero non sapeva di essere ripreso dal telefonino dello studente, quindi forse. Ma come non lo sapeva? Ma dai Maurizio, ma come non lo sapeva? Ormai lo sappiamo, saperlo, che siamo tutti altri però insomma, se lo sai, almeno l'epiteto te lo tieni, anche se poi lui l'ha detto, dice, sostiene di averlo detto così, ma sì, con ma... tono goliardico, potremmo dire, ah brutto, però vabbè. Ma sì, ma è meglio di no, dai. Ma è così, comunque, è un mix pazzesco, perché 50% Hollywood, 50% Cinecittà, più sano e più alto Costantino Rozzi o Romeo Anconetani, è veramente da questo punto di vista un mix perfetto, secondo me è perfetto per Napoli, è perfetto sì. Per Napoli, perché ha, diciamo, l'arroganza, la voglia, la capacità di far sognare i tifosi. Ma sì, ma il carisma, il physic du role, le ha tutte. È uno dei miei idoli, è uno dei miei idoli sportivi. Poi è chiaro che insomma, la dichiarazione su Cannavaro è... Beh, sempre meglio di quella, ma dai, l'abbiamo detto anche ieri, sempre meglio di quella di Blatter. Io chiedo un voto, un attimo per la borsa, però poi devo salutare Maurizio Crosetti e voglio un voto da lui per Cristiano Ronaldo, che ieri ne ha segnati 3 dei 7 del Real a Siviglia e poi ha fatto il saluto militare a tutti, compreso Blatter. Eh beh, è un comandante in campo, quindi è giusto che faccia il saluto militare. Per me il voto è palese, tanto è di moda in questi giorni, un voto palese a Cristiano Ronaldo, 9 per me, è lui il pallone d'oro, perché fa sempre gol, perché non si può dare sempre Messi, anche se è il più dotato di tutta la galassia, di tutte le galassie dell'universo. Però quest'anno, anzi, forse bisognerebbe darla a Ribéry per quello che ha fatto con il Bayern. Comunque, sicuro, insomma, voto altissimo a Cristiano Ronaldo. E io mi associo e credo che Pardo pure. Sì, che Pardo stati, pure. Grazie. Ronaldiani tutti, sì. Grazie Maurizio Crosetti. È sempre un grande piacere parlare con te. Tutti convocati. Questa la inventeranno solo tra centinaia di anni. Ma allora potete vedere tutto prima ancora che accada. Sì, tutto qua. Cala, cala, Berlino. Non proprio tutto. Ammetto che non sapevo chi sarebbe venuto per il tè. Ma come puoi vedere, ho indovinato il luogo esatto. Guarda, dovevi venire. Quando vieni? No, perché qui è divertentissimo il gioco della cuffia, eh. Ma stanno smontando tutto lo studio, un disastro, ma comunque non funzionano. È ufficiale. Il più bel palazzo di Milano, straordinario. Magnana non mi presento. Poi ci sono delle cose fantastiche, tipo che per prendere il trino della chiavetta, come nei villaggi turistici, non accettano il denaro. Cioè, è un luogo straordinario, extraterritoriale. Non rivelare i segreti, dai. Già hanno smascherato la Roma, hanno smascherato Garcia, c'è Stanni Maghi e quindi conta Roma. È normale che Stanni Maghi. Pardo, sono quello con la moglie più sexy della Johansson, ricordi? Della Johansson? Sì, ricordi, Federico D'Alessandro. Ah, certo, sì, quindi sì, risposta Scarlett, dovuta. Scusami, io ho tentato Scarlett, sì, in Johansson, complimenti. Se il rigore non lo davano contro la Juve, che casino facevano romani e napoletani? Vabbè. Ma sì, dai, il solito discorso, solita dai, storia. Discute dalla vita e... Basta Moviola in campo, scrive Max. Per ogni ulteriore indugio non può essere interpretato altro che con la volontà di mantenere vivo un sistema clientelare. Vabbè. Senti, sì, vecchio discorso pure questo. Diciamo che c'è un problema tecnologico e tutti gli stati dovrebbero essere dotati delle stesse strutture. Cioè, si riunisce una volta all'anno l'International Board. Sì. Che è quello che può cambiare le regole del calcio e poi non le cambia perché il calcio non le cambia così. E ci mettiamo l'anima in pace. Detto questo, ci sono delle situazioni nelle quali la moviola in campo non basta neanche, nel senso che poi pensa al primo rigore del Napoli dell'altro giorno, il secondo non ci sono dubbi che non ci fosse contro il Torino, pensa al primo rigore, ancora si discute se c'era o non c'era, quindi non ci sono dei casi in cui neanche la moviola ti salva. Detto questo, per carità, io capisco la frustrazione del tifoso al quale rubano due punti così, o tre punti, o un punto, è chiaro che è pesante. Ma poi rubano Piero. No, ma rubano tanto, sì, ma l'imperfezione, sì, ma a chi certo piace una donna perfetta? A chi? A me? A me. No, al di là di questo, la leggera imperfezione aumenta il fascino. Cosa? No, la leggera certo, imperfezione certo aumenta il fascino. A me il calcio certo piace così com'è. Poi è questione di gusti, non sentendomi mai derubato, perché alla fine mi diverto e basta. A me il calcio piace così. Poi se c'è chi vuole la certezza del diritto, questo io posso essere d'accordo, no? Quei tifosi che scrivono, un conto è fare i giornalisti, no, c'è questa vecchia storia che poi alla fine ti aiuta. L'errore fa audience, fa titolo, fa moviola, fa ascolti, quindi io posso anche capirlo. Appunto, mi metto nei panni del tifoso della Fiorentina, tanto per fare un esempio legato alle partite di ieri, e capisco che ci possa essere del dolore. Poi è anche vero che, contrariamente a quella vecchia favoletta che ci si racconta, non è che poi ci sia sempre la compensazione perfetta statistica e scientifica degli errori. No, statistica e scientifica no, non c'è mai. Non c'è anche... però poi si danno e si prendono, no? come sì, in campo si questo si poi prendono, succede. Poi probabilmente anche qui è un fatto proprio statistico, psicologico, che secondo me non riguarda la malafede, perché la malafede è proprio un altro discorso, però statisticamente è chiaro che se tu prendi 100 episodi, 100 errori arbitrali, è più probabile che le grandi squadre vengano favorite di più, perché comunque esiste un concetto di sudditanza. Quello esiste, ma anche perché per un arbitro è importante arbitrare la Juventus, il Milan, l'Inter, arbitrare le grandi partite, quindi tu dici oddio, se ne scontento poi mi ricusano, oppure... Però il meccanismo è semplicissimo, ci deve essere da parte dell'organo arbitrale, che è quello che decide, un rispetto assoluto di tutte le squadre, cioè ci deve essere che chi fa giurisprudenza e prende quindi poi alla fine le decisioni di valorizzare un arbitro piuttosto che un altro, sia assolutamente al di sopra di ogni sospetto e faccia delle scelte che vanno in una direzione assolutamente giusta, legittima per quello che si vede. Siccome noi oggi con le telecamere vediamo, la grande differenza rispetto a 20 anni fa è che oggi si vede tutto, quindi l'arbitro che sbaglia a favore della grande squadra o della piccola squadra comunque si vede. Sì, ma poi viene smascherato e alla fine finisce per pagarla, no? Perché appunto, viene sospeso, perché comunque fa una pessima figura, perché prende un voto basso, ce lo spiegava l'altro giorno Cesare, soprattutto in Europa un pessimo arbitraggio è molto più penalizzante di un rigore sbagliato per un giocatore, quindi alla fine l'arbitro la paga, non è che non la paga. Prima io voglio parlare con gli ascoltatori, Enrico, Francesco, Gennaro, ma prima Pier ti faccio, tu che sei un grandissimo, competente, appassionato di musica, questa canzone secondo me non la sai ancora. Senti. Vai. Caro lo Tito, ora hai capito perché la Roma è lassù. Sono cinque maghi che fanno il voodoo e te la vinde con. Presidente, buongiorno. Mi sente, presidente? Non sono pronto? Sono Alfonso, presidente, non ci conosciamo. Io sono un mago. E mi piacerebbe mettere... Ma se ne va da quel paese, si vergogni. Ma come si vergogni? Ma sono il mago Alfonso. Sono il mago Alfonso. Mi dica. Presidente, perché si arrabbia? Mi perdoni, io la conoscevo con una persona piena di humor, di umorismo, era sarcastico. Abbiamo avuto anche modo di conversare io e lei. Ma scusi, ma se lei se ne esce con tutte queste stronzate che hanno messo in giro, devo capire chi pure chi è stato. Ma mi faccio capire. Ma io, a prescindere dalle stronzate che hanno messo in giro, però la Roma è vero che ha preso 5 maghi, uno è mio collega, tra l'altro, gliela posso confermare. La direzione per ma non mi deve essere, io non lo so, non voglio sì, sapere. Eh no, però lei lo deve sapere. Io ho una visione cattolica cristiana, quindi non ho questa visione, come dire, legata, esoterica, quindi. Perciò niente, io intanto buongiorno presidente, io sono il mago Ignazio che faccio vincere la Lazio, non gli serve. Sì, ma bravo, io sono mago Ciappetto che modo metto. Roma è meravigliosa, Pardo. Scherzo telefonico allo Tito, questa canzone che è appena uscita, l'hanno fatta al volo. No, guarda, questo posso dirti da una parte e dall'altra, evidentemente, però insomma è proprio lo spirito che ci dovrebbe essere. Insomma, ma certo, ma spirito che è anche in Lotito, spirito. Assolutamente, no, sia da parte di chi faceva lo scherzo, che lo ha anche riconosciuti, sia da parte di Lotito, perché poi alla fine, insomma, ecco, non bisogna complicare le cose più di tanto e riuscire a sdrammatizzare, secondo me è fantastico. Non sempre ci si riesce, perché poi sono i soldi, perché poi sono le società quotate in borsa, i bilanci, eccetera, però insomma... Allora in campo è l'arbitro comprato e dobbiamo incazzarci per forza, perché se non ci divertiamo. Enrico, provincia di Como. Sì, buongiorno a lei e a... Buongiorno, è molto arrabbiato oggi? No, perché? No, so io. Guarda, si arrabbiano tutti, arbitri, ladri, furti. Io sono un vecchio sportivo. Mi sono scandalizzato ieri vedendo il rigore negato. Vede che arrabbiato? No, non sono arrabbiato. Ecco, ha detto scandalizzato. Scandalizzato no, è... Lo scandalizzato è parente stretto dell'arrabbiato. Vabbè, però ecco, com'è possibile con l'arbitro... due arbitri in pratica, perché non... Cinque, esatto, però non è possibile vedere queste cose, sono scandalose, anche perché il campionato onestamente viene anche alterato. Io sono interista, però insomma a me piace la Fiorentina come gioca e ho trovato ieri veramente una cosa inconcepibile, cioè non si possono fare questi errori. L'ultima cosa velocissima, sono un grande ammiratore di Balotelli. Sì. Ho paura che dietro il Simpraio stia maturando per trasferirlo altrove. Cosa ne pensate? Grazie. Ma secondo me, grazie a lei Enrico, secondo me questa è dietrologia. Io non ci credo neanche se lo sapessi per certo, non ci crederei. che giochi male apposta. Ma sì, dai. Ma non scherziamo. Ma non scherziamo. Che Raiola abbia in testa, abbia cominciato la campagna d'autunno-inverno per, per avvertire il Milan e per far capire che potrebbe andarsene, questo invece ci credo ciecamente, mi sembra evidentissimo. Ma che Balotelli giochi male apposta, ma questa è come, no? È come il discorso della moglie, no? Ma, ecco, ma dai, ma poi te l'avevo detto che Enrico era arrabbiato. Non ci credevi, sì. Non ci credeva neanche lui, invece era arrabbiato. Ascolta me, Gennaro, invece Gennaro da Napoli invece è contento. Sì, buongiorno, buongiorno. Gennaro, buongiorno Bardo. Io sono Gennaro, ti ho chiamato Giancarlo l'ultima volta che ci siamo sentiti. Niente, volevo, vabbè, la partita lasciamo perdere, Fiorentina-Napoli è andata come è andata, ma volevo parlare benissimo. Un po' di Cristiano Ronaldo. Sì. Allora, mettiamoci d'accordo. Dobbiamo dare il pallone d'oro a chi vince o dobbiamo dare il pallone d'oro per simpatia? Io il pallone d'oro non lo darei a nessuno, a me non frega niente il pallone d'oro, è il premio più sciocco che ci possa esistere. Il calcio è uno sport di squadra, è cambiato, roba che a me non piace per niente. È cambiato il criterio, Gennaro. Ma la storia dice che Cristiano Ronaldo in una finale ha sbagliato un calcio di rigore, in una semifinale ha sbagliato un calcio di rigore, comunque è un campione, però nel momento che deve esserci non c'è stato, se vi ricordate. Ma non si dà la carriera, si dà per la stagione, infatti il pallone d'oro quest'anno è Ribéry, poi il resto è mancia. Ma non lo diamo a Ribéry, ecco, qua volevo arrivare. Sì, ma secondo me c'è il rischio che non lo vinca, perché per come era strutturato fino a 3-4 anni fa, prima del nuovo format, assolutamente Ribéry quest'anno era il super favorito, e Iniesta forse l'avrebbe dovuto vincere nel passato, e però oggi di fatto è una sorta di suffragio universale, ovviamente, fra il corpo elettorale dei votanti su chi è il più forte giocatore al mondo, e quindi conta chiaramente il marketing, conta chiaramente anche la forza oggettiva, e Messi negli ultimi anni è stato sempre il vincitore. Io spero che non vinca Messi da questo punto di vista, perché mi sono un po' anche annoiato, quindi io lo darei a Ribéry con quel criterio lì, o lo darei a Cristiano Ronaldo. Io anche. E l'avrei data a Iniesta 2 anni fa. Sì, con tutte le riserve di cui sopra, cioè, secondo me il pallone d'oro è veramente qualcosa di ormai legato esclusivamente al baffo, alle tre strisce, a quello che hai sulla maglietta, ma a un sacco di altre cose, lascia stare. 800240024, dopo il traffico torniamo. Se mi permette, posso darvi delle simpatiche canaglie? Siete veramente fantastici. Tutti convocati. Silvano, il mago di Milano. Attenzione, signori. Sim salamine a voi e alle vostre famiglie. Attenzione, grazie. Su, un bel applauso. Grazie. Dell'illusionismo, della prestidirigirimirizzirizzazione. Sceglierò fra di voi un ignorante a caso. Vediamo subito. Un attimo. Luigi, mi trovi stasera in tribuna a Roma un mago da invitare domani a tutti i convocati? Stasera, guarda, abbiamo su Premium Calcio, stasera non avremo soltanto il bordocampo, avremo anche il bordomago, eh? Cercheremo di capire, insomma, dobbiamo essere attrezzati per questo. Ma certo, anche un mago per Tiki-Taka, Mago Telma c'è ancora? Esiste ancora? È sparito. Beh, Mago Telma è un fedelissimo della Zanzara, no? Il divino interviene spesso, quindi. Già, è vero. Devi chiedere a Cruciani il numero. Ma sai, certo? Io Cruciani non ascolto perché mi arrabbio. C'è chi mi scrive che sono in malafede perché l'Inter le prende sempre, guarda le partite, io le vedo tutte, viene trattata da provinciale. Poi voi mi fregate, ascoltatori, perché io. Le cose me le dimentico, visto che non me ne importa quasi nulla, no, degli errori arbitrali. Mi ricordo quelli di ieri, già quelli di domenica me li sono dimenticati. Mi ricordo solo quelli clamorosi, ad esempio quello di Inter-Chelsea, una Champions League che è arrivata grazie a un episodio favorevole. Se vogliamo anche la semifinale d'andata fra Inter e Barcellona, che è stata una delle partite più belle, più intense, più meravigliose della storia dell'Inter, quindi non togliamo nulla, però insomma, se andiamo a guardare gli episodi della partita d'andata, sicuramente c'era cioè, un gol in fuorigioco, ci poteva essere un rigore per il Barcellona, cioè voglio dire, ma questo lo dico non per sminuire quella che è stata un'impresa eccezionale dell'Inter in quella Champions League, lo dico perché ci sono fasi della vita e quindi probabilmente, anzi certamente, ci sono stati anni nei quali l'Inter si è trovata in una condizione svantaggiata, oggettiva, in certi episodi chiave del campionato. L'altro giorno abbiamo rivisto che c'era l'intervista a Ronaldo, il fallo, insomma quello è rigore, ok, benissimo, è rigore, però poi ci sono anche delle volte in cui magari qualche anno dopo l'Inter ha avuto gli episodi invece più positivi. Allora Insomma, la differenza fra il tifoso che vede soltanto una parte e chi invece cerca di essere un po' più oggettivo è proprio questa. Sì, mi fa impazzire, Mario. Non esiste nella storia del calcio una società che è sempre aiutata per 100 anni di storia e una società che è sempre osteggiata per 100 anni di storia. Sì. Sicuramente, tornando al discorso di prima, le grandi società hanno qui parliamo di un discorso normale, un discorso normale, quindi di buona fede assoluta, dove al massimo ci può essere un po' di solitanza psicologica da parte degli arbitri. Le situazioni patologiche, il materiale per la magistratura, quello è chiaramente un altro discorso. Mi fa impazzire Mario che scrive questo messaggio. Lei non crede a questo, non crede a quello, dietrologia, argomenti vecchi, il calcio mi piace così com'è, ma se ne vada, io parafraso a quel paese, per cortesia però mi dice, se ne vada, ma per cortesia. È che le fa comodo dire così, perché mi faccia comodo non saprei, ma comunque accetto la cortesia. Grazie Mario. Francesco da Parma, Francesco. Salve gente, buongiorno. Buongiorno. A lei. Senta, io voglio dirvi questo. Dica. E complimenti per la trasmissione, sì. Vabbè, ve li fanno i tanti. Quindi, dite anche voi, dica anche lei finalmente quello che realmente dovete dire sul Milan e Balotelli, cacca e compagnia, sono Kakà ed è un grande giocatore. Balotelli è un grande giocatore, a parte il comportamento, ma quello gli si chiede di fare il calciatore e nient'altro, è simpatico così com'è. Il vero problema, a mio avviso, del Milan è questa, ed è scontato. Lei sta dicendo Allegri, indovino. Sì, bravo. Le chiedo scusa. Ditelo apertamente. Come allenatore, lei lo sa che io parlo come allenatore e non come uomo, come allenatore, non è capace, non li sa far giocare, sono spenti quei ragazzi lì, sono spenti perché non c'è un conduttore, non c'è uno che li sproni, non è un allenatore che gli dà la carica, non gli ha dato gioco. Insomma, io sono sportivo e milanista, lei ormai lo sa perché ci sentiamo una volta al mese. Lo dite, ditelo anche agli altri giornalisti. Se vuole io lo dico, se vuole che lo dica lo dico, se le fa molto piacere io lo dico, lo dico, il problema del Milan è Allegri, poi magari non lo penso, però guardi, io per far piacere a lei lo dico, lo dice anche Pierluigi. Il problema del Milan in assoluto non è Allegri, il problema del Milan è che si continua a cercare giocatori di un certo tipo quando ci sono altri problemi, cioè Onda per esempio, adesso con tutto il rispetto. A che serve Onda? A me piace Onda, è un buon giocatore, un'opportunità che non ti cambia la squadra. In questo momento, priority setting, come dicono gli inglesi, no? Cioè, nella categoria dei problemi e delle gerarchie, ma è quella la cosa che serve al Milan. Al Milan serve, come il pane, trovare un grande centrale difensivo, trovare dei giocatori di qualità dietro, trovare forse anche un portiere nuovo, insomma, perché Abbiati è spesso acciaccato e non è più credibile. E invece il Milan ultimamente ha fatto un mercato un po' da Galacticos. Poi è evidente che se il Shaarawy dovesse tornare, Kakà fosse quello che abbiamo visto ieri sera e Balotelli riuscisse a fare pace un po' con se stesso, il Milan davanti è di una forza che pochissime squadre hanno, però ci sono un sacco di sedi, ma certo, troppo ipotetico. Allegri ci sta capendo poco, questo è vero, ci sta capendo poco e soprattutto come l'anno scorso non è molto rapido nel trovare le contromisure necessarie a un periodo di crisi. E forse in 10 secondi Carlo, questa sorta di tregua armata che c'è stata, questa pace e questa scelta di Galliani che ha forzato la situazione ed è riuscito alla fine a convincere Berlusconi di rimanere con Allegri, forse alla fine ha lasciato la situazione in un limbo, nel senso che probabilmente non gli hanno dato la squadra che Allegri voleva, non gli hanno dato i rinforzi, lui è rimasto, ma è rimasto come un separato in casa o comunque con un allenatore che non ha una fiducia piena da parte del presidente, e quindi forse alla fine Allegri avrebbe fatto meglio ad accettare, visto che aveva la possibilità, l'ipotesi Roma, certo, che offriva la possibilità di aprire un ciclo completamente nuovo. Questo sì. Volendo di poi sì, poi a Roma adesso sono contenti così e non come credo no, che cambierebbero, ecco. Ma no, non credi, non cambierebbero di sicuro, certo. Senti Pierluigi, io ti saluto con un messaggio che invita a ricordare e invita a parlare anche del fallo su Boniek nella finale che non si doveva giocare. Guarda dove siamo arrivati. Vabbè, ciao Pierluigi, ci vediamo a domani. Ciao. Cercami il mago stasera a Roma. Sì, domani lo portiamo. Domani il grande giornalismo d'inchiesta. Domani il mago, le grandi esclusive di tutti i convocati. Chiudere, ciao Pier, a domani. Tutti convocati. come, c'erano gli ascoltatori, sono spariti? Erano lì, adesso non li vedo più. Leopoldo, riusciamo a perdonare il calciatore che sbaglia il gol e non vedo perché. Non ho capito, mi perdoni, mi ripete da capo? Volevo dire che sì, noi sportivi, sì, quando il nostro centravanti sbaglia un gol, sì, se dopo fa un altro gol lo perdoniamo. Sì. Non vedo che l'arbitro, credo che sia uno dei mestieri più difficili fare, ha una frazione di secondo. Se non riusciamo a capire che dobbiamo capire che l'errore dell'arbitro fa parte di come se il nostro calciatore avesse sbagliato un gol. Accettarlo quando l'arbitro ci danno una cosa che non è, anche se non è un rigore a modo, e accettarlo anche quando dall'altra parte. Io la penso come lei, però è una tesi molto fuori moda, lei lo sa, no? Quindi io la penso come lei, poi non ho molto altro da aggiungere se non il ricordo di una storiella. Allora, prima un ascoltatore, perché poi le cose che tornano sono sempre quelle, no? Siamo andati indietro fino al rigore di Boniek, figuratevi se non rispuntava Byron Moreno. A proposito di Byron Moreno, ricordo la storiella secondo la quale, ovviamente non è una storiella, è cronaca, secondo la quale il giorno dopo quella partita una bravissima collega che ora lavora alla Rai, si chiama Chiara Prato, intervistò Byron Moreno. Unica intervista concessa da Byron Moreno mondiale fu a questi microfoni, no? Chiama in albergo, c'è il signor Byron Moreno? Sì, glielo passo una stanza, posso intervistarla? Ma sì. E allora Moreno racconta, sì, vabbè, magari ho sbagliato ho sbagliato qualcosa, però se il vostro numero, non mi ricordo, penso fosse il 20, Bobo Vieri, non sbaglia quel gol a porta vuota, voi non state qui a frascicarmi scatole, perché magari vincete anche la partita. O se il vostro difensore centrale al secolo Paolo Maldini benemerito non si fa saltare in testa e sovrastare da uno alto 1,50 m, cioè Han, magari la partita non la perdete. Aveva tutti i torti? Dennis, provincia di Venezia, è arrabbiato anche lei, scommetto. No, io no. Allora ti fa Napoli? Se non è arrabbiato ti fa Napoli? No, tifo l'Inter. Tifa l'Inter. E come fa a non essere arrabbiato con questi scandali arbitrali? Scandalo! Mi sono perso l'ultima parte di trasmissione perché non era la radio, però volevo prendere in considerazione un argomento che riguarda la difesa dell'Inter soprattutto. Sì. In caso Andreoli. Caso Andreoli mi sembra che sia stato un po' strappato da altre squadre, perché c'erano altre società che lo volevano, però abbiamo fatto di tutto per prenderlo e poi non gioca, anche quando ci manca un difensore di peso, insomma, che mi sembra che fosse stato paragonato, non so se fosse stato troppo azzardato dire a Facchetti, però da quello che sembrava promettere. Sì, azzardato di sicuro, azzardato, immagino, di sicuro, ma io non ricordo Facchetti, però da quello che mi raccontano e che vedo nelle immagini è un po', però no, va bene, ma ci sono, ma siamo pieni di queste storie, no? Al Milan avevano dei difensori giovani da lanciare, sembrava fossero bravissimi, poi ricordo che giocava Ambrosini difensore centrale. Evidentemente, per usare un giro di parole, non c'è grande fiducia di Mazzarri nei confronti di questo giocatore, non sta bene, questo non glielo so dire, non conosco quella situazione di Andreoli, so solo come lei che non gioca mai, quindi tant'è. Siamo d'altra parte il paese di Totti, Toni, Kakà, Giordino, Di Natale, Pirlo, è uno strano paese questo. Allora, notizia di cronaca dice che al Catania sono arrabbiati tanto, perché Bergessio si è fatto male, molto, fuori 2 mesi, questa cara trasferta di Torino a Catania, sconfitto 4-0, contrasto con Chiellini a metà campo, brutta botta, e Bergessio si è fratturato e sarà fuori 2 mesi, e Pulvirenti dice è stato un intervento di violenza inaudita, spocchioso e vigliacco. Altro no, violenza inaudita, spocchioso e vigliacco. Certamente non è stato un intervento tenero, così come non è tenera questa uscita di Pulvirenti. Mauro da Napoli è contento invece? No, tanto. Poco? No, io sono in controtendenza, perché sono di Napoli, ma sono salernitano di origini e di fede calcistica. Quindi sostanzialmente leggermente anti-Napoli. Leggermente anti-Napoli. Però io malgrado devo ammettere che anche se Napoli ha fatto solo due tiri, due gol, si è difeso comunque con ordine. Quello di Caleon, gran bel tiro e gran bel gol, aggiungiamo. No, indubbiamente non c'è niente da dire su questo, però due tiri, due gol, ma si è difeso con ordine, con raziocinio. Alla fin fine la Fiorentina non è che abbia fatto insomma tutti questi grandissimi tiri in porta, se andiamo a vedere. E lei anti-Napoli, ha detto? Diciamo leggermente. Leggermente anti-Napoli, dunque... Sostanzialmente sì. come salernitano, diciamo. Ecco. Sì, sì, sì, sì, ho capito la storia dei campanili, non ho dubbi. La Fiorentina però probabilmente un pari lo meritava. Comunque il Napoli ha fatto un'impresa vera. Adesso, al di là, poi mi direte, ma perché avrà comprata partita, perché c'è un disegno oscuro, perché il Napoli vogliono fare vincere il Napoli. Ma lo dicono, io lo so che lo dicono, se non lo dicono lo pensano, non lo vogliono dire lo scrivono via SMS, dove scrivono tutte le cose più disparate, mettiamola così. Allora, adesso io faccio, mollo qui l'argomento perché tanto lo riprendiamo domani, perché permettetemi la perversione, voglio parlare anche di sci con uno che sta in Qatar. Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera, ciao Flavio. Vabbè, però facciamo che è da ieri che ci pensi, sì, ad Abu Dhabi, da quelle parti lì, insomma. È da ieri che ci penso, questa perversione. Flavio Vanetti, come sapete, sì, strainviato Formula 1, sci, basket, eccetera, adesso ad Abu Dhabi a vedere l'ultima recita delle ballerine della Formula 1 stagionale. Ma la stagione di sci, dai primi vagiti, come ti sembra? Questa che ci conduce verso Sochi, dimmelo da lì, da Abu Dhabi. Io prima di venire qua, appunto per questa gara che appunto avvia la conclusione di questo mondiale ormai già deciso, mi ero beccato anche il giro a Sölden a vedere la gara stagionale. Mi sembra che non ci siano buone notizie sul fronte dei gigantisti maschi e femmine, ma questo era un po' un fatto atteso, nel senso che noi stiamo scontando in maniera molto molto pesante il cambio dei materiali deciso dalla FIS, praticamente sono stati introdotti la scorsa stagione, e questo ha creato una situazione per noi praticamente svantaggiosa, perché la diminuzione del raggio di curvatura ha fatto sì che i nostri si ritrovassero praticamente a dover reimpostare una tecnica che ha creato loro un sacco di difficoltà, mentre a uno come Leggetti non ha creato alcun problema. Lui vinceva sia nell'era, diciamo, del carving estremo, sia in questa nuova stagione di sci più vecchi, più vicini ai vecchi modelli, e sta imponendo ancora la sua classe, la sua tecnica, la sua capacità di piegare in una maniera che resta sconosciuta anche a chi gli va veramente vicino, come un Hirscher o un Pinguro. E quindi su questo fronte temo che la stagione olimpica non sia granché. In fronte maschile non ci saranno molte soddisfazioni, anche se poi lo sci è una di quelle cose che sono poi smentita dai fatti, perché basta vedere quello che è successo al mondiale di Schladming, alla fine il Bomberg, la medaglietta di bronzo l'ha presa proprio dalle porte d'aria, per cui non mettiamoli in la provvidenza, non illudiamoci troppo, anche perché alle Olimpiadi è one shot, Flavio, siamo autorizzati a sperare, perché gare di una botte via sono bellissime, sembra favorevole a quello, alle caratteristiche di Ligeti. Sul fronte femminile forse, ecco, ci si aspettava un attimino di più dalle nostre, cioè, però da dire anche che è una squadra con molti rientri, dalla Brignone che è stata praticamente ferma un anno, la Carbon che ha avuto l'ennesimo colpo di sfortuna fratturandosi un malleolo praticamente in primavera, quindi ritardando il recupero, la ripresa agonistica per una serie appunto di problemi legati a questo acciacco, insomma non butta molto bene anche dal punto di vista fisico, insomma, sono due squadre un po' da ricostruire con le difficoltà che ho detto legate appunto ai materiali che sono importanti nello sci, forse ancora di più che di quanto non siano in Formula 1, dove ad Abu Dhabi dicevamo ultimo giro di Valzer che non conta nulla, penultimo, terzultimo, però la buona notizia per tutti è che Newey vuole andare in barcavela, ovviamente per vincere l'America's Cup. Io non ci credo finché non lo vedo, anche se nota la sua passione per per le barche a vela, lui ancora prima di entrare in Formula 1 aveva questo gusto di disegnare anche barche, tutto e la vela è ancora uno tutto sommato dei suoi hobby. Io credo che lui resterà a disegnare macchine da corsa e chissà che magari un giorno non si riesca a vederlo anche alla fine in Ferrari, ecco. Non le escluderei del tutto questa possibilità, anche se alla fine lui è un po' il classico inglese che stenta un po' a muoversi dalla madre patria, insomma ricordo un po' il famoso John Barnard che si fece costruire il centro aerospaziale a casa sua e poi sappiamo com'è finita questa storia. Furono quelli che furono, no? Ma tu la Ferrari preferiresti Newey o Vettel? Allora, sicuramente tra i due si è creata una sinergia di ordine umano oltre che tecnico e credo che andare d'accordo con un personaggio difficile come Newey sul piano tecnico voglia dire molto e significa probabilmente ottenere il meglio dall'uno e dall'altro. Se io fossi Vettel tenterei di andare appunto alla Ferrari, diciamo alla Ferrari perché da italiani siamo ovviamente un po' partigiani e lo vorremmo vedere sulla macchina appunto di Maranello, diciamo su un'altra macchina, però meglio se sulla Ferrari per dimostrare magari senza lui che è in grado di vincere un mondiale con le sue forze. Sono d'accordissimo, ovviamente. Tutti dicono che vincere grazie alle magate di Newey, ecco, io credo che lui vinca anche per un suo talento, per un suo metodo, una sua applicazione nel lavoro. Però è chiaro che se viene poi con Newey questa cosa se la trascina dietro, ecco. Beh, è chiaro, la nuvoletta di Fantozzi. Ma io sono d'accordissimo, tanto che Vettel mi ricorda Messi, di entrambi si dice non sarebbero così grandi senza la squadra che li supporta e in parte è vero, sta allora a questo punto fare il salto e dimostrarlo, hai ragione, grazie maestro. Grazie a voi, buon sole lì ad Abu Dhabi. Grazie a Flavio Vanetti, grazie a voi che ci avete seguito. Buon Halloween, divertitevi, domani ci sentiamo alle 2 ovviamente. Mi scrivono di ricordare che siamo in diretta fino alle 15:20, cioè fino a quest'ora ogni giorno. C'è ancora qualcuno che non lo sa? Bene, adesso l'abbiamo ricordato. Chiellini ha fatto le sue pubbliche scuse su Twitter, amen. Franco Piantarini, autore di questo programma, Fabio Cantadone in regia, ciao a tutti. Oggi Carlo ha pronunciato il nome di Mario Balotelli 3 volte.